1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, le 7:19 minuti, siamo qui per leggere i giornali. Tanti mi scrivono: ma Aurora Lussana, che fine ha fatto Aurora Lussana? Non la chiami più al Parlamento? Ma sì, la chiamo, e che cos'è sta storia? Ha detto si vuole candidare sindaco di Cantù, insomma, allora non è che possiamo favorirla così, non è che possiamo tirare la volata elettorale ad Aurora Lussana che si candida sindaco a Cantù. Però dai, tornerà, abbiate fede. Allora, dai, andiamo a leggere i giornali. Giovedì 11 febbraio, i titoli, Il Sole 24 Ore apre su BCC e garanzie, le novità in arrivo per le banche. La via alla riforma del credito cooperativo. Tra l'altro però, la notizia anche che non farà piacere ai risparmiatori: nel maxi decreto non sono entrati i rimborsi per i risparmiatori penalizzati dal decreto salvabanche, questi slittano. Le unioni civili, un primo passo per le unioni civili, così titola il Corriere della Sera in apertura, mentre Libero è più critico: il PD divorzia per le nozze gay. Il Festival dei Diritti invece è l'unità che mette insieme anche i cantanti che a Sanremo si presentano, alcuni con il nastro arcobaleno. Avvenire a coscienza limitata, unioni civili e adozioni, spaccatura nel PD. Mentre invece registro su Repubblica, Renzi che prende carta e penna e scrive al direttore di Repubblica, risponde per la verità l'ex direttore Eugenio Scalfari sulla questione del ministro unico del tesoro europeo, e Renzi dice: l'Europa sbaglia, di sola austerity si muore. Questo è il senso del suo intervento. Sempre su Renzi, Il Fatto Quotidiano invece è critico: l'Air Force Renzi è tutto segreto. Sapete che è arrivato il nuovo aereo. E Il Fatto dice: non c'è trasparenza su quanto ci costa, lo vedremo. Ma come dire, questa è la classica notizia che ogni tanto, quando appare sui giornali, mette di buon umore i miei ascoltatori, io lo so. Anche perché adesso c'è un ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha fatto notare che in Parlamento si lavora un po' pochino. Giorgio Napolitano ha detto... ha invitato, più che ha detto, i colleghi onorevoli a spendere qualcosa in più delle 30-40 ore che ogni settimana dedicano alla vita parlamentare. Ed eccolo qui, allora Repubblica mette in prima pagina questo appello di Giorgio Napolitano. Napolitano denuncia deputati e senatori troppo poco al lavoro, ed ecco qui che allora Il Messaggero fa i conti, ed è il titolo che mette certamente di buon umore i nostri ascoltatori. Parlamento al lavoro... 2 giorni e mezzo a settimana. Filippo Aureggi, già in regia lì, è quasi svenuto di fronte a questa notizia. Vabbè, adesso non si calcolano, è vero, solo le sedute, non si devono calcolare solamente le ore lì sullo scranno, c'è il lavoro poi che si fa, anche il lavoro sul territorio, per chi fa il lavoro sul territorio, ci sono tutti i lavori in commissione ovviamente. L'altro giorno ho ricevuto una graditissima telefonata dal senatore Manconi parlando appunto di queste tematiche, dicendo: io lavoro, sia tranquillo, io le mando il mio resoconto lavoro fino alle 21 tutti i giorni. Ma ci credo, ma sicuramente è così. E ne sono certo, ma ovviamente nella media, eccolo qui, il Parlamento al lavoro 2 giorni e mezzo a settimana. Certo, io ricordo ancora, e nessuno che chiede conto ai presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, della loro prima intervista, ce l'ho scolpita nella mente. Quando ci fu la loro nomina, andarono, credo allora era Ballarò condotto da Floris ancora su Rai 3, e dissero: una delle prime cose che faremo è allungare la settimana lavorativa facendo lavorare anche il venerdì. Applausi tutti, bravi, finalmente. Primo giorno praticamente di questa legislatura, attendiamo ancora che questa settimana lunga venga introdotta in Parlamento. Comunque oggi avremo ospite il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Sicuramente chiederemo a lui anche di quello che scrive il giornale. Il giornale con Simone Di Meo dice: l'affittopoli di De Magistris, case a Posillipo a 24 euro. La questione che riguarda Napoli, riguarda Roma, riguarda tutte le città italiane è la solita: l'utilizzo del patrimonio pubblico e degli edifici pubblici lasciati a prezzi stracciati, in alcuni casi anche a istituzioni oltre che a cittadini privati. A Napoli, scrive il giornale, oltre 300 appartamenti a prezzi stracciati in centro, maxi sconti alle fondazioni di sinistra, alle sedi del PD. Ora la procura dei corti dei conti apre un fascicolo, visto che si parla di buco da 5 milioni, anche se il sindaco di Napoli dice: noi siamo vittime di questa situazione che denunciamo. Il giornale dice invece: l'amministrazione che ha ereditato certamente questa situazione non ha fatto abbastanza per modificare la situazione. Quello che invece starebbe facendo, cerca di fare, il prefetto Tronca, che a Roma dà il via ai primi sfratti. Questa è notizia sul Messaggero a pagina 9. I primi sfratti a Roma. E poi oggi Sergio Rizzo scopre un qualcosa di abbastanza inquietante. Ed è questo: 285 euro per la casa del Viminale. Ebbene sì, pensate lo stupore del prefetto Tronca, che è dipendente, essendo un prefetto del Ministero dell'Interno, e che scopre che tra i beneficiari di una casa in piazza Trevi 8, proprio a pochi passi dalla Fontana di Trevi, c'è proprio il Viminale, cioè il suo ministero. All'ultimo piano del palazzo di piazza Trevi 86, per la verità, non 8, piazza Trevi 86, a 8 metri dalla fontana più celebre del mondo, dove abitava Sandro Pertini, da 50 anni alloggia senza contratto per 300 euro mensili la poetessa Geltrude Persiani, c'è anche l'inquilino più illustre di questa affittopoli alla Vaccinara, niente meno che il Ministero dell'Interno, guidato oggi da Angelino Alfano. Ci credereste? L'appartamento occupato dal Viminale è uno dei 574 dell'ormai famosa lista delle pigioni irrisorie nel centro di Roma, stilata dal commissario Francesco Paolo Tronca, dalla quale è partita la valanga. Nell'elenco che sta facendo tremare la capitale, forse non solo, il contratto di quell'appartamento di piazza Trevi 86 risulta ora disdettato, senza altre precisazioni circa l'autore della disdetta: l'amministrazione dell'Interno oppure il proprietario dello stabile, cioè il Comune di Roma. Sul fatto invece che la pigione sia irrisoria, la lista non lascia dubbi: 285 euro al mese. A cosa e a chi serve o serviva l'alloggio? Alla scuola superiore di polizia, come dicono? Una scuola superiore di polizia davanti alla Fontana di Trevi a 285 euro al mese? Comunque sia, è oggettivamente singolare trovare anche lo Stato tra i beneficiari della generosità alloggiativa capitolina. Ma così capita: i 285 euro per la casa del Viminale con vista sulla Fontana di Trevi. E si chiede a Rizzo ora come interverrà il governo, visto che il prefetto Tronca ha scoperto che tra i destinatari di questi alloggi c'è anche il suo ministero, di fatto. E a proposito di misteri, il Fatto Quotidiano mette in prima pagina, e poi a pagina 3 ci sono gli sviluppi dell'articolo di Stefano Feltri e Carlo Tecce, il racconto riguardo all'Air Force Renzi, come è stato ribattezzato. Sapete che abbiamo preso un nuovo aereo dalla Etihad, un aereo di Stato su cui viaggerà anche il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, anche membri del governo. E per questo, scrive il Fatto Quotidiano, Palazzo Chigi ha giustificato il ricorso alla procedura di secretazione, per cui non cercate di capire quanto ci costerà. Scordatevi di sapere quanto paga Palazzo Chigi per il nuovo mega aereo voluto dal Premier Renzi. Rassegnatevi a non sapere se si tratta di un salasso per il contribuente italiano, di un benefit o di un benefit concesso da James Hogan della sua Etihad. È segreto perché il contratto è stato segretato. Non è un gioco di parole, la spiegazione ufficiale è di Palazzo Chigi. L'articolo 17, il codice degli appalti, prevede che si possa derogare agli obblighi di trasparenza di gara per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione attribuita una classifica di segretezza e anche per contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Insomma, visto che su quell'aereo viaggiano le massime cariche dello Stato, Palazzo Chigi dice deroghiamo al codice degli appalti e poniamo la secretazione, per cui non si sa e non si può sapere quanto ci costerà questo giochino del mega aereo. E invece sentite qui, questo è da premio Mani sul Volante. Questo è l'articolo che mi fa pinzare della giornata. Delle banche poi parleremo certamente con Mauro Meazza, perché sono il piatto forte del Sole 24 Ore. Ho già detto che nel maxi decreto sul sistema bancario non è entrata la questione dei rimborsi per i risparmiatori penalizzati dal decreto salvabanche, ma eccolo qui a proposito di banche. Fabrizio Boschi, pagina 4 del giornale. I colpevoli del crack Etruria prendevano 5 stipendi. Tra compensi per particolari cariche, gettoni di presenza, benefit. Eccoli qui snocciolati gli stipendi, di fatto, spezzati in 5 gettoni di presenza, appunto. E poi tutte voci come gettoni per il comitato di controllo interno, gettoni per il comitato remunerazione, compensi per l'organismo vigilanza, rimborso spese, premio fedeltà e alè, 5 stipendi. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Mola mia Alessandro, mola mia che t'as il numero o il numero. Grande, il numero uno sei tu, caro ascoltatore, che ci mandi al 349-238-6666 la sigla, le vostre sigle in audio. Forza, non siate timidi, via WhatsApp. Non vincerete un microfono a Radio 24, ma sarete sempre nei miei e nei nostri cuori. Allora, le unioni civili, ieri il primo scoglio superato, perché ieri pomeriggio, come racconta Alessandra Arachi a pagina 2 del Corriere della Sera, il Senato ha respinto il non passaggio al voto in aula della legge sulle unioni civili. Il fronte è 195 voti contro 101. La grande polemica c'è stata però perché il presidente del Senato Grasso ha detto si voti senza il voto segreto. Ha spiegato il perché e i senatori che lo chiedevano, una settantina o poco più, tra questi Quagliariello, Giovanardi, Calderoli, si sono molto molto arrabbiati, hanno accusato il presidente Grasso di essere stato arbitro invece che imparziale in questa vicenda. Grasso in qualche modo risponde in questa che non è un'intervista ma un colloquio con Liana Milella a pagina 6 di Repubblica. Il contrattacco di Grasso: non sono Ponzio Pilato né Don Abbondio. Quando sono le 9 di sera nel suo studio a Palazzo Madama, Piero Grasso può concedersi un momento che è di stanchezza, fastidio e profonda irritazione insieme. Perché presidente cita Ponzio Pilato? Perché io non sono né lui nell'altro, Don Abbondio, io in solitudine ho scelto. Non vuole polemiche, dice: stasera sono stanco, devo ammetterlo. Se avessi convocato la giunta per il regolamento, spiega, come mi hanno rimproverato di non aver fatto, sarebbero stati pronti a linciarmi e a darmi l'accusa di Ponzio Pilato, proprio come è avvenuto in passato. Ma adesso le rimproverano invece di essere un giudice parziale, un cattivo giudice, quindi. E si permettono di dire a me questo proprio oggi? Ma lo sanno che giorno è oggi? E ieri, ricorda Repubblica, era il 10 febbraio e dunque l'anniversario di quando Piero Grasso, 30 anni fa, da giovane magistrato, vestiva la toga di giudice a latere nel famoso maxi processo a Cosa Nostra. Da quel giorno, tra l'altro, ha la scorta armata per le minacce della mafia. E dunque un Piero Grasso molto arrabbiato, molto deluso per le critiche. Comunque la votazione, la prima votazione è passata e quindi non è rimandata alle commissioni, alla commissione la legge, si voterà però a partire da martedì prossimo. Da martedì prossimo si comincerà a votare sugli emendamenti. Tra l'altro, sulla questione si innesta una dichiarazione e un caso che, per carità, durerà e si sgonfierà nel giro di 48 ore, ma davvero increscioso, e che riguarda un consigliere regionale della Lega in Liguria. Questo signore si chiama Giovanni De Paoli. C'è un giallo perché la frase che alcuni genitori di ragazzi omosessuali imputano a questo Giovanni De Paoli è questa. Ha detto: se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno. Voi capite che il Secolo XIX mette tutta questa vicenda in prima pagina con ampio risalto. Ora, questo Giovanni De Paoli, dopo una giornata inseguito da tutti, dai giornalisti, ma anche dai leghisti stessi che hanno preso le distanze da una possibile frase del genere, è stato convocato poi da Edoardo Rixi, che è responsabile della Lega in Liguria, racconta il Secolo XIX, e lui ha messo la classica toppa che forse è peggio del buco, perché ha risposto così: non ho detto se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno, ho detto se avessi un figlio gay non lo brucerei nel forno. Ho capito, ma anche solo a pensare per negazione una frase del genere, ma perché associare il figlio gay e alla possibilità o alla non possibilità di bruciarlo nel forno? Mi sembra un po' una spiegazione che in qualche modo rafforza la gravità della frase. Un figlio gay lo brucerei è bufera sul leghista De Paoli, che poi appunto smentisce in maniera molto goffa. Si sono dimenticati il non nella mia frase, non lo brucerei nel forno, rimane davvero la frase incresciosa. Comunque, lasciamo le unioni civili, parliamo di amministrative, perché qui sta succedendo un po' l'inferno. Ieri Rita Dalla Chiesa, candidata su tutti i giornali per il centrodestra a Roma, anche ospitata da Simone Spezia in Effetto Giorno, ha detto: sono nel panico. Poi nel giro di qualche ora la sua candidatura si è totalmente smontata. Lei stessa ha detto: no, non ce la faccio. Oggi fa una serie di interviste Rita Dalla Chiesa a dire: ma no, la politica è una cosa per iene, ci ho pensato, la mia vita sarebbe stata stravolta. Lo dice al Corriere, lo dice a Repubblica, lo dice al Fatto Quotidiano, lo dice un po' dovunque Rita Dalla Chiesa. E però il centrodestra è nel caos. Cioè, a parte Stefano Parisi, che si candida a Milano e lo conferma in un'intervista al Corriere della Sera, dice Stefano Parisi: sì, effettivamente mi candido, è ufficiale. Viene intervistato da Elisabetta Soglio a pagina 19: mi candido a guidare Milano dalla Lega a Lupi, tutti con me. E però c'è qualcosa che non va nel centrodestra. Sentite, per esempio, come Berlusconi, racconta lo stesso Corriere, avrebbe definito la vicenda Dalla Chiesa. Questa di Rita Dalla Chiesa è una cazzata della signora Meloni. Mentre Matteo Salvini, a chi gli chiedeva di un summit del centrodestra previsto nel pomeriggio, piuttosto mi butto nel Tevere. Era a Roma, Salvini. Cioè, a dire che c'è qualcosa che non va. E sentite, per esempio, anche la stessa Giorgia Meloni, che viene intervistata da Repubblica, viene intervistata da Carmelo Lopapa e dice: noi ci fermiamo qui, il candidato di Fratelli d'Italia a Roma per quanto ci riguarda è Fabio Rampelli. Certo, e Parisi a Milano ha ottimo nome, ma alt, a questo punto nessun candidato è scontato finché non avremo il quadro generale. Rita Dalla Chiesa, dice Giorgia Meloni, sarebbe stata una candidatura imbattibile. Proprio per questo è stata fatta oggetto di ironie e dileggiamenti. Ma possibile che Salvini non sapesse nulla? Ma non scherziamo, ne avevamo parlato a pranzo il lunedì ad Arcore. Detto questo, io non ho fatto saltare i vertici a tre quando la Lega ha schierato Lucia Borgonzoni a Bologna. Insomma, voi capite che c'è molta confusione e anche tensione, scrive il Corriere, nel centrodestra per la scelta delle persone. Ma c'è un altro nome che spunta. Ogni giorno ha il suo nome, ogni giorno, per quel che mi riguarda, c'è il mio godimento, perché dico: andate avanti così, perché ci si diverte moltissimo. Il nuovo nome che spunta lo fa Salvini, intervistato dal Messaggero convintamente, è Irene Pivetti, l'ex presidente della Camera, è vero, ma poi ha avuto una carriera più televisiva che altro. Irene Pivetti, dice Salvini, Irene Pivetti non se la caverebbe male. Ho dato una sbirciata ai sondaggi, non la vedo da almeno 5 anni, ma penso che sarebbe un bel candidato per Roma. Ma voi capite che io non la vedo da 5 anni, ma credo che sarebbe un bel candidato. Ma mettiamo nel lagone politico anche Mauro Meazza. Ma Mauro, è il momento, ora o mai più, Mauro! Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda, ma se mi candidassero, sì, cosa che sì, periodo ipotetico della realtà, della fantascienza, sì, ecco, ma poi dopo non mi chiami più allora. Ma no, ti chiamo, abbiamo linea, no, non posso, scusa, linea al sindaco, linea al sindaco. Ma dovrai anche vincere, figuriamoci. Va bene, lasciamo perdere. Non, no, puoi dire tranquillamente che non sono interessato, peraltro come il mio cognome manifesta, diciamo che sono più legato alla città di Milano, come si evince dal mio cognome, piuttosto che a quella di Roma, e quindi mi sembra un po' difficile che i romani possano così scegliermi in qualche modo. Va bene, lasciamo perdere, adesso mi hai distratto, invece stavo leggendo, come annunciavi, le nostre pagine sul decreto banche, cosa è stato deciso e cosa non è stato deciso perché è rinviato ieri. Trovi tutto sul Sole 24 Ore oggi, c'è anche una pagina riassuntiva con le varie misure. Allora, attenzione, interventi per le banche di credito cooperativo, con una riforma parecchio importante, e poi soprattutto anche questo intervento sulle vendite giudiziarie, perché c'è una semplificazione, si modificano le imposte sulle vendite di immobili all'asta nelle vendite giudiziarie. È tutto sul Sole 24 Ore di oggi, spiegato voce per voce. Ti voglio anche dire, c'è stato una sorta di doppio rinvio, cioè di rinvio ad altri provvedimenti, per la copertura dei risparmiatori che sono stati danneggiati dal fallimento delle banche, si interverrà con un decreto della Presidenza del Consiglio, e poi c'è stato anche un rinvio per alcune norme di riforma del diritto fallimentare in genere, ma questo te lo spieghiamo in dettaglio, non andare a norme tributi oggi, religiosamente, vai religiosamente sulle prime pagine del Sole 24 Ore, poi andrai religiosamente anche sulle pagine di norme tributi. Oh, naturalmente anche il decreto per le NPL, vabbè, insomma le GACS per le NPL, vabbè. Allora, in sostanza i crediti deteriorati, quelli che non vengono più pagati, ecco. C'è questo sistema di cessione con garanzia pubblica, ma pubblica diciamo tra virgolette, perché altrimenti diciamolo piano, se no a Bruxelles poi si scocciano. È tutto spiegato anche lì sul Sole 24 Ore. Oh, poi ti voglio dire, la produzione delle auto è andata bene, è ripresa più 45% addirittura sul 2014, lo trovi nelle pagine di Imprese e Territori. Peraltro la produzione industriale in genere invece nel mese di gennaio è andata così, una crescita dell'1%, quindi c'è tutto il dettaglio nelle pagine di Imprese e Territori. E poi voglio annunciare invece per Radio Fisco, posso fare qui Radio Fisco? Certo. Qui Radio Fisco. È in vista una semplificazione per il 770. Ah. Guarda, tu fai il sarcastico, ma no, guarda che i sostituti d'imposta che sono obbligati... No, ti sento che fai il superiore. E no, perché i sostituti d'imposta che sono obbligati a 770 sanno di cosa sto parlando. Allora, il direttore di entrate, Raffaele Orlandi, Rossella, ha annunciato ieri una semplificazione dal 2017, però. Quindi, vediamo che succede. Intanto, sempre nelle pagine di nomi e tributi che tu compulserai con avidità e con molta attenzione, come sempre, ma in un solo avverbio dillo tu. Religiosamente. Bravo. Troverai anche che fanno piccoli passi avanti il decreto legge mille proroghe, primo voto per la conversione, e anche il disegno di legge sulla concorrenza con nuove misure di semplificazione per le polizze auto. Perché ti parlo di auto adesso? Chissà, ma per dire la mia parola conclusiva che è traffico! Alessandro Milan, la step, il la stepchild adoption dell'informazione. Straordinario, grande ascoltatore, vedi che ce l'hai fatta, adoption, dai. Allora, oggi Matteo Renzi prende carta e penna e scrive a Repubblica per rispondere a Eugenio Scalfari e parlare poi di Europa. E non sono indiscrezioni, non sono parole filtrate. Questa volta sono le parole nero su bianco del Presidente del Consiglio, che ancora una volta critica la linea e la politica europea. Scrive Matteo Renzi, la lettera è pubblicata in prima pagina: la questione del superministro europeo del tesoro non è il punto centrale. Oggi il problema dell'economia dell'Unione non è il superministro, ma la direzione. Perché questa è la tesi del nostro governo: negli ultimi anni l'Europa ha sbagliato strada. E se vogliamo bene alle istituzioni europee, dobbiamo far sentire la nostra voce. Lo facciamo per l'Europa, non per l'Italia. Molto sinteticamente, scrive Renzi, negli 8 anni di presidenza democratica gli Stati Uniti hanno puntato su crescita, investimenti e innovazione, l'Europa su austerity, moneta, rigore. A livello economico gli Stati Uniti stanno meglio di 8 anni fa, l'Europa sta peggio. Sintesi da titolo di giornale o da tweet: Obama ha fatto bene, Barroso no. L'austerity non basta, e del resto i paesi che sono cresciuti in Europa lo hanno fatto soltanto perché hanno violato in modo macroscopico le regole del deficit. Penso al Regno Unito di Cameron, che ha finanziato il taglio delle tasse portando il deficit al 5%, o alla Spagna di Rajoy, che ha accompagnato la crescita con un deficit medio di quasi il 6%. Se una cura non funziona, scrive Renzi, dopo 8 anni si può parlare di accanimento terapeutico. Insomma, il succo, il cuore di questa lunga lettera, che poi prosegue tutta pubblicata a pagina 3, è questo: l'Unione Europea sbaglia strada perché di solo austerity si muore e ora vogliamo una svolta. Questo Matteo Renzi è pubblicato da Repubblica. Ci sono notizie di cronaca che mi hanno un po' colpito, ma più di che di cronaca, beh, questa è un qualcosa che riguarda tutti i nostri allievi, tutti i nostri studenti. Ogni anno l'OCSE fa delle rilevazioni sul grado di apprendimento dei nostri studenti, proprio in questi giorni in cui si parla di pagelle. Cara Angelica, figlia mia, ascolta bene questo titolo del Messaggero: uno studente su 4 analfabeta in matematica. Lo dico anche a Mattia, l'altro mio figlio, ma a tutti i genitori. Insomma, i nuovi dati OCSE sono questi: in Europa siamo tra i peggiori. Lo racconta Lorena Loiacono sul Messaggero a pagina 6, tempo di pagelle, ma dall'OCSE arrivano le solite conferme. Purtroppo l'Italia ancora una volta è fanalino di coda per le competenze dei quindicenni, nonostante gli sforzi profusi negli ultimi 10 anni. Stando all'ultimo rapporto, i voti degli studenti restano insufficienti e ben al di sotto della media OCSE, a cominciare proprio dalla matematica, l'incubo di un ragazzo su 4. Quasi il 25% degli studenti mostra carenze nella conoscenza dei numeri, non riuscendo a risolvere semplici problemi in classe. Si tratta di 140.000 ragazzi che hanno ben poca dimestichezza con il saper far di conto. Sono 2 punti sotto percentuali sotto la media dei risultati rilevati nell'area OCSE. E va bene, anche il Corriere dedica una pagina a questo problema: i ragazzi che non sanno usare la matematica quotidiana. 1 su 4 è analfabeta in matematica, sancisce l'OCSE. Oh, di cronaca, che dire? C'è questa notizia che mi ha colpito, e cioè, lo scrive Il Giorno, a Modena arrivano i DASPO. Sapete che i DASPO sono quel provvedimento del Ministero dell'Interno che ti vieta di andare alle manifestazioni sportive. Il DASPO questa volta è arrivato a dei genitori che hanno compiuto una rissa classica sugli spalti durante la partita dei loro bimbi. Tifo con rissa tra i papà sugli spalti, lo stadio vietato per 1 anno. Davide Miserendino lo racconta da Modena a pagina 15 del Giorno: divieto di accedere alle manifestazioni sportive, provvedimento valido per 1 anno che la questura di Modena ha emesso nei confronti di due genitori che lo scorso 24 gennaio hanno fatto un'assurda rissa sugli spalti a Fiorano. Assurda non solo perché le botte e il gioco hanno poco da spartire, ma anche perché in campo si sfidavano i loro ragazzini di età tra i 14 e i 16 anni e sono stati proprio i ragazzini sorpresi dall'atteggiamento dei loro vecchi a dire smettetela. Dai, fuggiamo alla carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, mezza pagina sulla stampa dedicata alle rughe e al trucco da ragazzina della principessa Kate. Salvatela, dice la stampa, si veste come una vecchia. Ma chi se ne frega?